ingrata Roma, e più di Roma ingrato Lucio, se non fai scudo al cavalier che il tuo rivale uccise. Ma pregia questa carta la mia.